io la regolazione giusta l'ho trovata a 2,27 metri. Adesso stavo guardando perché mi sono segnato tutto, 2,27 metri, quindi hai due fili, uno a fianco all'altro, uno da 8,50 metri e uno da 2,27 metri, ok? Ed è una cosa spettacolare sia da vedere ma sia anche come usarla. Se tu vuoi, devi andare nel sito della Smartech, utile che ti rivolgi a Fusaro che te la fa pagare una barca di soldi, e te lo devi ordinare da importatore. Tu devi andare nel sito della Smartech, molto facile, e digiti al computer o te lo fai fare J-Pol 27, ok, J27 della Smartech, e te la ordini dall'importatore ufficiale per tutta l'Italia, perché se tu vai a ordinarla da Fusaro, Fusaro ti ama quello, ci deve guadagnare su di te, ok, e te la fa pagare 300 euro quell'antenna, perché quell'antenna costa 220 euro portata a casa costa 220 euro perché costa 195 più 25 di trasporto, perché lo stilo centrale, ok, è 3 metri chiuso, è 3 metri, quindi chiaramente te la deve portare Bartolini, a me me l'ha portata Bartolini, capito? Questo è il quanto. Ho capito, perfetto, sì, la regolazione dallo stilo corte, ho capito, benissimo. Bene, sì, io sapevo che ci aveva due antenne sono in pratica una affiancata all'altra, una corta e l'altra 8 metri e 50 o 70, quant'è, ho capito benissimo. Però mi interessava capire bene dove si registrava, adesso ho capito, vabbè, dai, non la monterò io, già ci sarà qualche altro a montarla, perché io non c'ho mica molta pazienza di stare lì a far tornare e a fare. E Roger, quello che si paga non mi interessa, l'importante è perci l'antenna, dopo tanto io ancora lì la pago con la carta, quindi mi viene a cercare, adesso non c'ho possibilità di liquidità per cabri, quindi per forza devo, diciamo, accedere da lì, da Fusaro. Vabbè, quello che si parla non mi interessa, l'importante è averci l'antenna. Perfetto, non mi interessa niente quello lì. Vabbè, se avete avuto altra possibilità, siccome io con la carta che ho io non posso fare ordinazioni online per nessun motivo, quindi bisogna accedere da lì, perché da quando sono lì ho ordinato anche un sacco di cose, parecchie cose, ho fatto un sacco di spesa e ho speso un sacco di soldi. Per dire la verità, adesso per dire, diciamo, gli affari miei, diciamo, per dire altre cose in frequenza, non so, ma più di 3.000 euro di spesa ci ho fatto lì, quindi quella lì mi farà il favore di farmi acquistare questa bellissima antenna. Vabbè, non mi interessa quello lì, fatto è l'importante è avercela. Va bene, scusando le passeggi lungo, riprendi Giulio, a te il cambio. Sì, Francesco, io riprendo, ma riprendo anche per salutarvi, infatti stavo aspettando, per cui devo scendere giù, dai, c'è gente a casa, perciò devo lasciarvi, dai, ancora la cena non è pronta, però siamo lì vicino, molto vicino. Ci sentiamo, ciao Francesco, grazie per la chiacchierata, ciao Claudio, grazie anche a te, chiaramente mi hai dato tutte le spiegazioni necessarie e complete per l'antenna, e va bene così, anche se io l'avevo vista ma era un video, per cui la tua versione in diretta è stata molto ma molto più efficace sicuramente. Ciao Roberto, salutoni, ciao Antonello, se sei ancora all'ascolto, poc'anzi mi sembra che ti sei allontanato, e poi qualche altro, chi c'è? c'è Altino, se ancora l'ascolto saluto anche lui, saluto a tutti, ascolto finalino e dopodiché chiudo. Ciao Lobroffetta anche, certo, ci sei anche tu, o Cedi, non lo so. Avanti Roberto, ci sei? Sì, sì, faccio i saluti anche a te Giulio, mi allontano anche io qualche minuto. Ben sentito, grazie per essere una bella chiacchierata, ci siamo fatti. Ok, faremo rientrare a cosa? A Muro, così saluta che è già un po' di parcheggio e poi farà girare la luce. Io mi allontano qualche minuto, dai, proseguite voi. 5 stelle, ciao Roberto, che grazie del QSO alle prossime linee, sì, grazie per avermi rilanciato, sì, anch'io ne approfitto per allontanarmi dalla radio, la faccio quelli di anch'io perché devo andare a fare una cosa. Aspetta Giulio un attimo. Ero a Giulio, Dino e cosa, Tonello Paracuda e tutti quelli che ci sono rimasti sulla ruota, là, e anche quelli che ci sono in ascolto, io devo fare quel rettino immediato, là. Mi ha fatto piacere, vi ringrazio a tutti quanti del QSO e ci sentiamo nel prossimo video. Il cambio per Claudio Sparviero, riprendi Claudio. Sì, sì, questo l'ho lasciato un attimo in bianco, intanto saluto Roberto, saluto a te Claudio, saluti a casa eccetera, poi chi c'era non mi ricordo. Giulio, quel video che hai visto, se l'hai visto su YouTube, l'ha messo Vittorio, praticamente quello che io, che mi ha venduto l'antenna, il venditore ufficiale per tutta l'Italia, capito? Gliel'ho mandato io, sai quello, su YouTube l'hai visto? Sì, su YouTube l'ho visto, sì, certo, io bazzico molto su YouTube, oh Claudio, proprio a livello di elettronica, eccetera, quando voglio vedere qualcosa scrivo YouTube, la cosa che mi interessa, e c'è sempre qualche video da vedere, certo, evidentemente, adesso io non mi ricordo se c'era scritto il nome di quello, dell'operatore del video, questo non me lo ricordo, però già ci riprovo e sicuramente lo troverò di nuovo, e poi ti saprò dire se è appunto lui. Questo Vittorio di nome, che poi tra l'altro mi sembra che hai detto che è quello che aveva riparato la radio. Sì, il nostro tecnico, quello che ha riparato la tua radio e quello che ha riparato la mia. Ok, ok, va benissimo così. Già ci riprovo, voglio rivederlo ancora una volta. Ciao Claudio di Mulos, intanto scusami, mi ero dimenticato di salutarti, se si era ancora ascolto. Va bene, signori belli, io vi lascio, dai, devo scendere giù perché è arrivata mia figlia, eccetera, eccetera. Perciò devo scendere. Ci sentiamo, grazie ancora a tutti per il consiglio, ci sentiamo domani che sono i santi, se ricordo bene. Ok, riprendi pure ancora Claudio e poi fai girare tu agli amici che sono rimasti. Ok, molto bene, no, non penso che l'abbia, forse sì, comunque se tu digiti e poi magari ti mando con calma tutta la cosa ufficiale del venditore, così se magari vuoi contattarlo lo puoi contattare, non c'è problema. Ok, ciao Giulio, grazie a te delle due chiacchiere, prossimo. Vediamo un po' chi è rimasto in questo canale, a parte Francesco, salutando tutti quelli che sono usciti, nessuno, quindi Roberto si è allontanato un attimo, capito Francesco? Io a Marzia gli ho già dato il coso ufficiale per poterti aiutare su questa cosa, perché appunto mi ha detto che ti serve questa antenna, però vedi un po' tutto, non lo so. Non lo so, per montarla è di una facilità che anche un imbecille, con tutto rispetto agli imbecilli, la può montare, perché è tutta segnata con i numeri, ok? Ogni pezzo che tu prendi ha un numero e nell'altro pezzo che tu devi attaccare c'è lo stesso numero, quindi devi andare numero con numero. Ad esempio sono tutti con la S1, S2, S3, e hanno tutti un nastro praticamente particolare, tu devi arrivare sino a quel nastro perché ci sono i fori per poter restringere sia le barre con gli isolatori, sia l'antenna, è di una facilità proprio. Io mi sono montato prima un pezzo del centrale per poter poi montare l'altro pezzo a fianco e poi ho assemblato tutta l'antenna in verticale praticamente, tutta bella chiusa, fascettata. Tu immaginati, stai attento, che l'unica antenna, a differenza della mancova, che non ha bisogno di essere isolata. Sai cosa vuol dire isolata? Che l'acqua se entra dai tubi, esce dal tubo proprio, perché il tubo sotto è tutto aperto, no? non va a toccare il VL come la manfa, non va a entrare l'acqua dentro il circuito dell'antenna. È fatta in una maniera pazzesca, io infatti non l'ho isolata, non ho messo nessun altro vulcanizzante nelle fascette, le fascette sono tutte libere, tutte belle da vedere perché sono luce e luce, non c'è inossidabile. L'antenna è tutta tutti i pezzi che ci sono tutti in acciaio inossidabile, quindi non ha bisogno di essere isolata dall'acqua, perché l'acqua entra da sopra, da sopra c'è un cappuccetto, ma l'acqua entra nelle fascette, non è? E scende dal tubo perché sotto è aperto, quindi non hai nessun problema, non si marcirà mai in quell'antenna, mai e poi mai, a differenza della mantova. Ho capito, meglio così allora. Vabbè, si è spiegato benissimo, ok. Benissimo. No, c'ho anche lo San Fatto poi, me l'avevo fatto già, hai capito chi, dal computer, ce l'ho infatti nello San Fatto l'antenna. Niente, l'avevo già vista. È una bellissima antenna quella lì, una bellissima antenna. Non mi interessa troppo, ripeto, quanto me la fa pagare, l'importante è avercela. Cosa credi? Questa che c'ho me l'ha fatta pagare, l'ha pagata 2 lire. Ma se l'ho pagata non te ne c'ho adesso, la LM Super City, quella lì. Quasi 250 euro, quindi vedi un po' tu, da spendere 50 euro in più anno, diciamo, ecco, tanto non mi interessa, l'importante è averci l'antenna e via, così almeno sono tranquillo, c'ho la stazione, diciamo, tranquilla, senza dubbio che, diciamo, mi succeda qualcosa, diciamo, all'apparecchio o agli apparecchi. Vabbè che ho sempre qua collegati gli strumenti qua, quindi già tengo sempre più tutto e non mi sfugge niente e mi accorgo subito se c'è qualcosa, diciamo, che non sta andando bene. Infatti qua in questo momento ho uno e tre di notte. Quindi se salgo su che aumento salgono anche a 2, ma a 2, anzi non a 2, a 2 addirittura, anche a 5 pure salgo, voglia, per carità. Va bene, grazie l'informazione, carissimo, e niente di più, dai, ok. Vabbè, non so che ci sia rimasto qua a far girare, boh. Va bene, riprendi tu ancora a far girare, dai. No, non penso che sia rimasto nessuno, c'è solo Roberto in Querici. Oh, io ti dico una cosa, Francesco, però prendila come cosa buona, nel senso che io non so chi la debba montare quell'antenna, però noi siamo un tiro di schioppo, no? Ti ho spiegato orientativamente, sono di fronte a te, quindi siamo all'incirca 8 km, io non ho niente da fare dalla mattina alla sera, quindi dal momento in cui tu ordini quell'antenna e ti arriva quell'antenna, a me mi fai uno squillo di telefono, il mio numero ce l'hai, ok? Mi fai uno squillo di telefono, ci organizziamo come cristiani, senza fretta, senza niente, ci organizziamo bene e io a te ti faccio un impianto che tu te ne lecchi le dita e non lo tocchi più, ma te lo dico non con presunzione, te lo dico con molta sincerità, ok? Quell'antenna te la piazzo io, te la assemblo io a terra, te la taro io a terra, una volta che è tarata a terra come ho fatto io, allora si mette sopra il tetto, sopra il palo, sopra il poggiolo, sopra dove vuoi, perché la metto con una mano quell'antenna, pesa 7 kg, assemblata, è lunga 8,50 m, l'ho presa con una mano e l'ho infilata dentro il tubo, ok? Quindi se tu sei d'accordo, rimaniamo d'accordo così. Dal momento in cui tu hai l'antenna, non la fare toccare a nessuno. Tu mi chiami, io vengo da te e te la piazzo. Te la piazzo una volta per sempre, questo impianto, perché mi sono rotto le palle sentirti che spendi una barca di quattrini e non ne togli i piedi. Questa volta mi voglio prendere io la responsabilità nei tuoi confronti e con l'antenna te la piazzo io, perché io l'ho montata ed è di una perfezione, che non viene bene a dirlo, Francesco. Quindi quell'antenna, se tu sei d'accordo, quando ce l'hai te la piazzo io. Ok, perfetto, va benissimo anche così, sì. Va benissimo anche così, va bene. Perché quella, l'impianto me l'ha fatto bene, allora. Ok. Benissimo, vabbè, dire. Così vabbè, adesso l'importante è prima la beccia, perché avevo già contattato la signora e mi ha detto, dice che stava, aveva un sacco di lavoro da fare in negozio, perché era impegnata molto con questi decoder, quindi non aveva tempo, diciamo, di fare, diciamo, altre cose. Vabbè, adesso io martedì, dopo domani, la interpello di nuovo, la contatto di nuovo e vediamo un po' cosa mi dice, dai. Dopo io tanto verso metà, diciamo, di novembre dovevo andare a Sassari per altre cose, quindi passo da lei e vediamo un po' cosa ne cavo più di fuori, dai, per dirla così. Va bene, niente. Vabbè, comunque stasera ho cambiato microfono, l'MC60 l'ho sganciato e niente, dai, sto usando il 908. Niente, tutto qua. Vabbè, comunque l'alimentazione anche di questo microfono che sto usando è, diciamo, abbinata a una scatola, a un componente elettrico fatto, il componente, diciamo, è lungo 7 cm per 4,5 per 3 cm. Dentro questo componente c'è un sacco, è tutto pieno di componenti, diciamo, è fatto alla perfezione, c'è anche l'interruttore, accendi o spegni, anche il led per vedere se le componenti sono in funzione, infatti già è in funzione, è tutto lì. Il microfono viene alimentato da quello lì, viene alimentato, perché l'alimentazione di questo componente viene presa dall'alimentatore, dal componente, viene trasformata la corrente, se non sono molto ignorante, da 12 a 3 volts per il microfono. Ok, tutto qua. Benissimo, a te cambio. Stai parlando dell'MC60? E dell'MC60 anche di questo qua, perché anche la V908, se lo sai, c'è anche le batterie sotto, solo che l'MC60 devi aprire, diciamo, devi togliere le viti e via. Questo qua c'ha lo sportellino sotto, togli lo sportellino e dentro vedi l'alloggiamento della batteria. Perfetto, la V908 tu hai, perché lo conosco perfettamente, sono stato uno dei primi ad averlo quando è uscito, solo che è un barragione, no? Non mi interessa. La V908 è un altro tipo di microfono, ok? L'MC60 ha 8 pin. Se il pin centrale, che è quello che alimenta il circuito di alimentazione, non prende alimentazione diretta dalla radio, se tu non metti le batterie all'MC60 non lo stai alimentando. Puoi attaccarlo a qualsiasi giocattolino che ti alimenti, non 3 volts, 8 volts, ok? 8 volts. Capito? Quindi è una cosa completamente diversa. Se tu non metti le batterie all'MC60 lo puoi attaccare a qualsiasi roba, non funziona, stai usando un microfono normale. È come io ti do, io ho l'MC50, che è un microfono uguale all'MC60, però è normale, non ha circuito di amplificazione, esce benissimo ma non è amplificato. È la stessa cosa di quello che stai usando tu. Però ti ripeto, se tu hai l'MC60 non vai a metterle nella sua sede le batterie per poter alimentare il circuito, perché è separato, non funzionerà mai amplificato, tu lo puoi attaccare a qualsiasi parte, capito? Vabbè, anche un'altra cosa che devo fare è giusta. Va bene, va bene. Ma siccome io una volta, cioè, perché da prima l'avevo già avuto l'MC60, dopo ho fatto uno scambio così con un altro e l'avevo dato a parecchio e l'MC60, ok. In pratica era il 50, già lo conosci benissimo, della Kenwood. E c'era ovviamente l'MC60, diciamo, abbinato, ok. Mi dicevano qualcuno che, diciamo, l'amplificazione c'era, capito? Il microfono, io non lo so se c'era una batteria o no, ma sicuramente sì o no, non lo so. Comunque se tu mi stai dicendo che ci vuole una batteria, vabbè, ci metteremo le batterie quando quando sarà, diciamo, l'occasione di mettercele, perché io quel microfono non l'ho preso per le baracchini, l'ho preso per altre cose che mi interessavano di più. Ok, perfetto, vabbè, questo lo dropperò qua per il baracchino, ma l'altro, quello lì, lo userò per altre cose, dai, per i dovuti modi dove si deve collegare quel microfono lì. Tutto qua. Vabbè, rispetteremo le tue, diciamo, indicazioni, i tuoi consigli, e va benissimo così. Benissimo, grazie di tutto, carissimo, riprendi ancora, e niente, dai, a te il cambio, visto che non c'è rimasto nessuno. A te il cambio, dai. Capo Francesco, allora, un'altra cosa che hai detto, appunto, esatto, tu avevi il 1050, ok, te lo conosco perfettamente perché l'ho avuto io, è il più piccolo che ha fatto la Kenwood. Usando un microfono Kenwood, stai attento, usando l'MC60 con quella radio, è normale che sia amplificato, perché senza nessuna modifica, quando tu inserisci, te lo spiego in parole povere, quando tu inserisci lo spinotto nel TS50, che è un Kenwood, la radio stessa, siccome ha 8 pin, uno di quei pin, che adesso non so se è uguale agli altri Kenwood, comunque facciamo sia uguale, quindi uno di quegli 8 pin va ad alimentare, ok? Va ad alimentare direttamente il circuito di alimentazione dell'MC60. Perché? Perché la radio alimenta il microfono con l'alimentazione diretta dalla radio. Va bene? Quella sede delle pile, delle batterie, è stata fatta per usare l'MC60, chiamiamo sempre MC60, o qualsiasi altro tipo di microfono, sempre di quelli professionali, anche della ICOM, che hanno la sede batterie, per poter usare con radio che non hanno l'alimentazione diretta per poter alimentare il microfono. Quindi di che radio parliamo? Di radio vintage, sempre a 8 pin, no? Che però non sono in grado di dare l'alimentazione alle radio. Allora l'hanno fatto per quello. O viceversa, usare l'MC60 adattato ad un baracchino o ad un'altra radio che non ha l'alimentazione diretta. Va bene? L'alimentazione diretta, radio, microfono, sono tutti gli HF che appunto hanno il suo microfono originale, quindi parliamo di MC60, SM20 della ICOM, che non so se tu l'hai avuto, SM8, SM10, SM6, ok, che tu hai avuto, cosa possiamo dire, MD100, MD200 della Yaesu, l'MD1B8, l'MD1C8 della Yaesu, tutte quelle radio HF che hanno i suoi microfoni da tavolo, tutti quei microfoni vengono alimentati dalla radio diretta. Se tu usi uno di quei microfoni su un baracchino, devi per forza alimentarlo con le batterie, perché altrimenti il circuito di amplificazione non funziona. Ok, Francesco? Sì, ho capito, quello io lo sapevo, dai. Lo sapevo, grazie delle spiegazioni, sì, no? Lo sapevo quello lì, lo sapevo, infatti l'MC60 viene alimentato direttamente dall'apparecchio, diciamo, stesso, dai. Le batterie servono per l'apparecchio, diciamo, che non c'ha, diciamo, la predisposizione di alimentare il microfono, diciamo, e allora ci vogliono le batterie. Ok, perfetto. Ma ad esempio adesso, dunque, un'altra cosa, visto che siamo nel discorso, agganciandolo, diciamo, collegandolo all'ICOM, l'MC60, funziona, se no ci vorranno le batterie, sicuramente, sicuramente. A te Cappio. No, Francia, vedrò, non sei stato attento. Tutti i microfoni, io posso abbinare il microfono della Icom, lo posso abbinare alla Kenwood, il microfono della Kenwood lo posso abbinare alla Icom, solo esclusivamente cambiando le connessioni, solo cambiando le connessioni nello spinotto, ok? Perché sono invertite. Se tu inserisci l'MC60 su una radio Icom, esce di portante, si va a inserire la portante, vanno praticamente modificate le connessioni. Modificando le connessioni, quindi il microfono MC60, chiamiamolo sempre così, va a sposarsi molto ma molto bene con qualsiasi tipo di radio Icom, te lo dico perché l'ho già provata. Io non ho mai fatto il cambio di connettore, nel senso modificare il connettore, mai. Si fanno gli adattatori, tu ti fai un adattatore o ti fai fare un adattatore da Kenwood a Icom, ok, e puoi usare l'MC60 diretto sull'Icom alimentato a 6 volts, perché quello a 6 volts, l'Icom a 6 volts, ok, e l'MC60 esce amplificato, e ti posso garantire che esce molto bene a questi livelli, non cambia assolutamente niente, perché le prove le ho già fatte, ho fatto Icom con Kenwood e Kenwood con Icom, perché io per tanti anni ho usato l'SM20 della Icom col 440 ed è uguale, preciso come modulazione all'MC60. Ho capito, capito, benissimo, benissimo, e ovviamente lì ci vuole lo spezzone, diciamo, l'abbinamento suo, ok. No, non stavo pensando, diciamo, a toccare niente del microfono, nulla, solo ci vuole, diciamo, l'abbinamento suo fatto, niente. Ho capito, va bene, perfetto. Va bene, carissimo, io ti saluto perché passo in corretti, ci sentiamo domani sera magari. Niente, grazie della chiacchierata e grazie delle tue preziosissime informazioni. Ti saluto, dai, buon proseguimento di serata, buona cena quando la farai e salutoni al tuo rispettivo QRA familiare. Ciao, ciao ancora Claudio e ci sentiamo magari domani. Per me e corretti, ciao, ciao, ciao. Ciao Francesco, a tua completa disposizione per qualsiasi cosa, te l'ho detto, non ci sono problemi. Per me è un piacere informare quello che mi hanno insegnato, perché nessuno mi ha imparato, però sono prove tecniche che abbiamo già fatto un po' tutti. Io soprattutto ho fatto molte, molte prove tra Icom e Kenwood e Yaesu, perché le mie radio sono sempre quelle. Comunque, prendi atto di quello che ti ho detto, quando sei pronto, quando vuoi una mano, non esitare a chiamarmi, io sono a tua completa disposizione. L'antenna, se vuoi, te la piazzo io e tu vedrai che l'impianto, se te lo faccio io, ma senza presunzione, stai pur certo che ti dura qualche anno in più, perché improvvisarsi tecnici siamo buoni tutti, però avere quel minimo di esperienza, io ripeto, che uno ha preso da altri, perché io quello che so fare me l'hanno insegnato altri che l'hanno fatto prima di me, quindi mi fa piacere metterlo a disposizione di chi qualsiasi abbia necessità. Questa antenna io l'ho piazzata, e l'ho piazzata in base a quello che deve essere piazzata, perché se sbagli l'antenna non va bene, ok? Ciao Francesco, quando vuoi chiamami, non c'è nessun problema, siamo abbastanza vicini, ci faccio un salto e vediamo quello che ce l'ha fatto. Ciao, buona cena, buon tutto. Ciao, ciao, ciao carissimo, ciao, ci sentiamo, buon proseguimento di serata ancora e salutoni, salutoni cordiali, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Rubi, ci sei ancora? Ci sei? Acci? Oh, non ci sei più. Chi è? Chi sei? Ti sento basso basso, chi sei? Vieni avanti. Parla più piano e dimmi dove stai parlando. No, non ho capito, da dove? No, parli troppo in fretta, non capisco. Che andiamo, che